La verità che libera. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 8, versetti 31 e 32. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Verità. Ognuno è convinto di avere la sua. Com'è possibile conoscere davvero la verità? Eppure Gesù sosteneva chiaramente che l'ascolto della sua parola avrebbe portato le persone a conoscere la verità e la verità li avrebbe liberati. Le persone che stavano davanti a Gesù nel sentire queste parole reagirono male, dicendo di non aver bisogno di essere liberati perché loro non erano mai stati schiavi di nessuno. In fondo è così che reagisce anche l'uomo moderno. Non abbiamo bisogno di Gesù, non abbiamo bisogno di Dio, non abbiamo bisogno della religione, siamo già liberi. Eppure la diagnosi che Gesù fece ai suoi interlocutori nel primo secolo sarebbe la medesima oggi. L'uomo crede di essere libero, ma il suo modo di vivere questa cosiddetta libertà dimostra che è schiavo. Basta guardarsi intorno e vedere che l'uomo con tutta la sua libertà non fa che esasperare l'ingiustizia, la violenza, l'inquinamento, la fame. Se l'uomo è libero, allora sta facendo un pessimo uso della sua libertà. Gesù invece dichiarò ai suoi interlocutori che erano schiavi del peccato, ed era proprio quel tipo di schiavitù da cui lui li avrebbe voluti liberare. L'uomo vive credendo di non aver bisogno di Dio e dei suoi insegnamenti, eppure, proprio violando la parola di Dio e non avendo un rapporto con il suo Creatore, l'uomo sta andando di male in peggio. Ancora oggi le parole di Gesù ci ricordano che ci illudiamo di essere liberi, ma le nostre scelte, il nostro modo di condurre gli affari, la famiglia, la politica, l'intera società è il risultato di una schiavitù. Il peccato ha portato l'uomo a costruire una società dove non c'è posto per Dio, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Possiamo avere benessere e tecnologia, ma senza un rapporto con il nostro Creatore non saremo mai liberi. L'uomo parla di pace e giustizia, ma intanto ognuno cerca di arricchirsi a danno del suo prossimo. Continueremo ad essere schiavi delle nostre passioni, della nostra ricerca del successo e della ricchezza, cercando sempre il proprio interesse. Ma la nostra sete non sarà mai colmata se non dall'acqua che solo quel Dio che abbiamo escluso dalle nostre vite può offrirci. Vuoi essere libero? Allora rivolgiti a Gesù. Per quanto possa sembrarti incredibile, nell'ubbidienza alla sua parola troverai la verità che può renderti davvero libero.